sottili la mente. C'è la terribile, se si vuole, non mi lasciano passare. Sottili la mente. Gli uccelli non visti, a terribili cespugli, non mi lasciano passare. Sottili la mente di uccelli non visti, a terribili cespugli, non mi lasciano passare. Qualcuno che bussa. Plin, plin, plin. Professor, questo è l'unico suono che oggi sento quando vado a comprare qualcosa. But this is the only sound you hear when you go shopping, huh? Plin, plin. Ricordo, nel mio paese arrivavano i venditori ambulanti. So you had salesmen in your village? Le loro voci erano davvero familiari per me. Voices. Tell us something about these voices, Rino. Can I? Yeah. Di qualcuno? Ma ricorda. C'era. Jacca venea! Jacca venea! Jacca era un omino piccolo, tutto sporco di carbone. This was a small man or covered in coal. Lui si caricava un sacco enorme addosso e girava per via il paese. Carrying a big bag. Jacca venea! Jacca venea! Vendeva carbonella. So selling coal? Esatto, era l'unico carburante, diciamo, per riscaldarsi. Poi c'era. Sette la mia! Sette la mia come te! Sette la mia! Lui comprava le mandorle. Ah, buy almonds. Sì, da noi c'erano tantissime. Ogni casa aveva un pezzettino di marciapiede occupato dalle mandorle. Ah, every house. Che stavano al sole da asciugare. E lui comprava le mandorle. Ah, costava. Porcato oggi! Morgato oggi! Lui raccoglieva l'olio esausto. Ah, il collected used oil. Esatto, quello che si friggeva, si rifriggeva. Allora, quando arrivava, mia madre diceva, guarda, piglia la bottiglia sotto la lavandina. Sì. The e vai giù. Ah. Io prendevo questa bottiglia, andavo nei suoi secchi, e in cambio mi dava un pezzo Rino. No, era un pezzo di sapone sotto. Ah, so. Come squerso. Ah, il sapone. Un pezzo di sapone giallo, quelli per il bucato. Ah, poi. E come nuda. Ci sta. Questo era il più amato da noi bambini. Ah, the beloved from the children. Questo arrivava con il pullman nella piazza principale. The main square. Un uomo alto, filiforme. Tall man, thin. Un cappello in testa. The hat. Arrivava, scendeva dal culo, apriva una valigetta, fatta a scomparti, dove c'erano aghi, spilli da bavia. E comincia a volare. Capito, capolato, capo me ne va! Capito, capolato, capo me ne va! Se arriva appena arrivato, già davanti. Lui raccoglieva capelli. Ah, collected sì. Hair? Sì, raccoglieva capelli. Mia nonna aveva in testa un tuppo. Tuppo? What is tuppo, Rino? Tuppo? Era lo scignone. Scignone? Lo scignone. La pettinavano una volta ogni sei mesi. Mettevano a terra, era un rito. Mettevano a terra il foglio di giornale. Mia madre e le mie zie scioglievano il tuffo e con un pettino fitto fitto. E alla fine c'era un nugolo di capelli. Ah, non dicevo, allora, conserva i capelli. Io ho conservato i capelli e quando avrei a parlare facevo il barco. Capelli in cambio di aghi, spille. Però da noi bambini voleva il rame rosso. Red copper? Sì, quello che sta nei fili delle luci. Ah, electric wires. Ah. E noi ci spellavamo le mani da bambini. Una volta gli ho portato una palla così. Una botta. In cambio, c'è ma da? Un curto duzzo. Un curto duzzo? Sì. Ma che è curto duzzo? Temperino piccolino. The little knife. Ah, curto duzzo! Ehi, averlo curto duzzo in mano. E poi? Ci sta l'ultimo. Questo però prima di prima. Arrotino ma la forma di... Arrotino, ma la forma Oh, lui aveva una bicicletta che si era modificata. A modificare basico. La bicicletta ci aveva messo una mola e azionando il pedale la mola girava. E lui prendeva un coltello di qua, un altro coltello. Rino, buongiorno! Ehi, come andiamo? Buongiorno! Andiamo bene, tu come va? Bene, tu, hai spazio come va? Vabbè, ma quello è l'età, Rino! Non ha rovinato come va? Ciao, bella! Ciao. Ma avete saputo che è successo? No! Come, non avete saputo? A Tricarico! Hanno arrestato il sindaco! Oh, il sindaco, figlio del Vincenzo Ciabattara! Rocco, hanno arrestato Rocco. Chi dice che è innocente, chi dice che è colpevole, ma lo sapevo io, lo sapevo, perché davanti alla porta della legge ci sta un guardiano, a questo guardiano ci va un uomo di campagna che ci chiede: signor guardiano, che posso entrare? Posso entrare? Il guardiano ci dice no, più tardi forse, ma per il momento no, no, assolutamente. Chi le parole si mise là, capite? Aspettava e passava il tempo. Un giorno il guardiano lo guardava e ci fece: qui, ma tu da quale paese provieni? Non ce l'avessero mai detto. Subito l'uomo di campagna: guardiano, io vengo da Tricarico, al paese mio, mamma, ma stiamo bene, facciamo grandi balli, e tu pensa che quando è carnevale facciamo una grande festa. Risanato il bilancio, eseguito lavori di strade di campagna, condotti l'economia ai servizi della ricchezza urbana e delle imposte al consumo, riuscite passioni per la costruzione di un ponte sfiduoso richiesto dai contadini più di 100 anni.

ton appel, rouleur éternel de victimes. Dis-nous, sans regretter le niais de Fallot. Bousses enfants, la chair de pensure, l'eau verte penetra ma coque de sapin. Tâche de vin bleu de vomissure me lava, dispersant gouverneil les grappins. Et belle or, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astre et l'acte sang, dévorant les azurs verts, où flottait son plein et ravi. The drowned. Thenceforward, fused in the poem, milk of stars of the sea, I coiled through deeps of cloudless green, where they come swaying down, wrecked and sad, singly, the drowned. The drunk, gli annegati. Oh, Trino, why don't you, Rosso, tell us something about the fears when you were a child? Huh? It's interesting. Tell us something. Che ti racconto? Yeah, come on, Rino. Have a seat, have a seat. All right, have a seat. Sit. Okay. Quando ero bambino, i miei genitori, per tenermi buono, mi riempivano di paure. So your parents filled you with fears, eh? Oh, c'erano diversi personaggi, eh? Ah, different characters. Come no. Tell us come some no. of those characters, Rino. Non te ne racconto qualcuno. Sì. Allora, il primo di cui avevo una tremenda paura era un spirit. Spirit, Rino? Oggi potrebbe essere io il fantasma. Ah, the ghost. Dei morti. The spirit of the dead. Aleggiava in periferia. Ah, in the suburbs, ah. C'era la tomba di un operaio che era morto. Ah, the tomb of a workman. Poi c'era un lupanario. Lupanario? Rino, what is this? Il licantropo. The wolfman! The wolfman. Ah. Questo durante le notti di luna piena, the full moon, ah. Ci crescevano le unghie e il pelo. Hair, long nails. Però non poteva salire più di 3 scale. What? He could not climb more than 3 steps? Lo fa leggendo così. Boh. Allora noi bambini ci mettevamo alla quarta scala. Ah, sì, io sì. E gli eravamo sempre. Very interesting. Altri? No. Poi c'era un squazzarriente. Un squazzarriente o il monacello. Monacello, Rino? Sì. Era lo spirito di un bambino, più o meno di questa altezza. Ah, spirit of little child? Il quale di notte ti sedeva sul petto e ti impediva di respirare. Se un sito mi accesso e preventi from breathing. A me è successo la notte. Almeno credo. Ho mangiato un po' di peperoni cruschi, però. Peperoni cruschi! I love peperoni cruschi, Rino! Comunque, se tu fossi riuscito a togliere il coppolino rosso che avevi in testa. Ah, you had to catch his red hat! Lui ti rivelava il luogo dove aveva nascosto il suo tesoro. Ah, so he'll tell you where his treasure was. Però lo spirito che mi ha tormentato fino a qualche mese fa era lo spirito di Ucharal. Ucharal? Era uno spirito particolare. Particolo spirito? Sì, usciva solo alla controlla. Counter hour? You know, what is counter hour? Dalle 2 alle 4 del pomeriggio. 2 to 4. Down south, ah. Quelli gli adulti dovevano riposare, capito? Ah, solite che. E uscivo. E per una vita ho chiesto a mamma. Ma c'è questo Ucharal? So, your whole life you've been asking your mother, what is this Ucharal? Mamma diceva, dimmi, boh. Così mi hanno detto a me, e così ti ho raccontato. Oh, yeah, I've been told the same way I tell you. Un paio di mesi fa. So, 2 months ago. Sono entrato nella bottega

È fatto giorno. Siamo entrati in gioco anche noi, con i panni e le scarpe e le facce che avevamo. Le lepri si sono ritirate e i galli cantano. Ritorna la faccia di mia madre al focolare. Nu dolce suono.